L'amore odiato non è bello, è un tipo tosto, inquartato, non direi bello, una folla di denti di varia angolatura, spigoli dove sbatto come ciglia o piuma, ed una cicatrice che si stira come una gattina sul labbro inferiore se sorride e se un sorriso divarica la bocca, coprendosi con mano tremula di pudore. Ma non ha pudore né amore melodioso quando desiste dall'aggrottarsi e si dimette addormentandosi o quando, mentre si rade, manda acidi odori selvatici di maschio enunciando un ritardo, il solito ritardo di madre, un ritardo che fa madre, una madre implacabile che tardiva lo spia dall'angolo agonico del suo specchio grandangolare. Che faccia anche gola, lo so, quella faccia di schiuma.